Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto ad Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è dedicata alle musiche della Grande Guerra. Non faremo ascoltare tante canzoni, ma ci limiteremo a qualche fatto, a qualche avvenimento, perché nella Grande Guerra ci sono dei ricordi, hanno suonato grandi direttori, ci sono i canti di tutti, dei soldati, delle persone semplici. C'è un mondo che va riscoperto. E tra il 22 e il 25 maggio a Gorizia si è svolto un festival di storia, che appunto si chiama Estoria, è organizzato da Adriano Ossola, ma poi ha una partecipazione amplissima. E in questo festival si è parlato, il titolo era Trincee quest'anno, si è parlato proprio della Grande Guerra, si sono fatte visite sui luoghi, è stato anche realizzato un concerto sul Monte Santo da Uto Ughi in ricordo di un celebre concerto di Toscanini. Il Monte Santo, che in sloveno si dice Svetagora, viene conquistato nel corso della decima battaglia dell'Isonzo, maggio del 17, da un manipolo di soldati guidati dal tenente Guido Slata, era fratello di Scipio, autore tra l'altro del Mio Carso, libro che si legge ancora a scuola. E Scipio morì sul Podgora nel 1915. Per quell'impresa Slata, per Guido, venne insignito dalla medaglia d'oro al valor militare, e poi quel monte venne perduto perché gli austriaci lo riconquistarono, e poi verrà ripreso nel corso della battaglia della Bainsizza l'estate del 17 dagli italiani. E allora in quell'occasione Arturo Toscanini andò e organizzò proprio un'orchestraccia, una banda militare, e per 3 giorni, pensate, di seguito, con l'elmetto in testa, eseguì musica davanti al nemico. Un giorno di quelli, addirittura, le nostre fanterie cercavano di prendere il San Gabriele. E per quell'avvenimento Uto Ughi, giovedì 22, si è recato al Monte Santo e proprio lì ha eseguito una serie di musiche, una piccolo concerto con un pianista per rendere omaggio ai nostri soldati, ai soldati di tutte le guerre, forse ai giovani che sono morti anche senza sapere la ragione, e ovviamente ad Arturo Toscanini, che ha avuto la costanza, il coraggio, il cuore di salire sino a lassù. E abbiamo con noi al telefono Adriano Ossola, che ha organizzato tutto questo festival. È stato lui a portare Uto Ughi a Gorizia e poi al Monte Santo, in Slovenia, ha fatto questo gemellaggio tra l'Italia e la Slovenia. Finalmente un abbraccio dopo 100 anni. Noi entreremo in guerra nel 15, ma la guerra cominciò nel 14. Buonasera Adriano Ossola. Buonasera. Io spero che d'aver detto delle cose sensate, ma mi sembra che sia andato tutto così, no? Assolutamente, un evento di grande valore simbolico, come lei ha messo in evidenza. E Uto Ughi, tra l'altro, aveva la chiesa piena ed è stata una cosa clamorosa, perché sono arrivati molti sloveni e la serata mi pare sia stata tradotta anche in sloveno, no? La serata è stata tutta bilingue, comunque abbiamo avuto la certezza da telefonate che arrivavano da varie parti d'Italia che il pubblico era appunto eterogeneo e di provenienza direi nazionale addirittura. Estoria, questo festival che mi pare abbia compiuto 10 anni, si è chiuso il 25 e il 26 di maggio, ma quest'anno ha ricordato la Prima Guerra Mondiale, è stato il più grande avvenimento italiano con ospiti internazionali, che appunto ha ricordato la Grande Guerra, osservando la data del 14 e non del 15, che è il nostro ingresso. E stiamo parlando del concerto di Toscanini che si fece sul Monte Santo nel 1917. Per 3 giorni, dinanzi al nemico, il maestro eseguì musiche con una banda militare. Noi l'abbiamo ripreso in questo piccolo momento di Traviata. Ecco, Ossola, cosa è successo poi alla sera del 22 sul Monte Santo, quando è arrivato Ughi, appunto, per ricordare Toscanini e per ricordare tutti i ragazzi italiani e austriaci che hanno combattuto? Beh, le suggestioni erano numerosissime e tutte enormemente palpabili nell'aria. Quando lui ha iniziato a suonare si è avuto proprio la sensazione di un avvenimento storico doppiamente significativo. il concerto è stato stupendo e poi c'è stato un momento di riflessione con appunto ancora Ughi nella forma di protagonista, ma con appunto riflessioni sul tema della guerra e della pace. E poi, visto che tutta la serata aveva, come abbiamo detto all'inizio, questo alto valore simbolico, si è cercato di suonare per un momento anche all'esterno, di fronte al Monte Sabotino, quindi sui luoghi della Grande Guerra più noti nell'immaginario e nella realtà del conflitto, del primo conflitto mondiale. Ci siamo tutti accodati a Ughi in religioso silenzio, è stato un momento di trepidazione e quando siamo usciti poi lui non si è sentita di suonare, ha detto solo qualche battuta. Io non l'ho sentita perché ero in fondo, proprio in fondo a questa fila, ma ho percepito il religioso silenzio che c'era attorno. Forse lei, che era vicino, può aver sentito anche che cosa ha detto. Sì, lui voleva eseguire un brano di Bach per pochi secondi, forse per un minuto, rivolgendosi alla valle dove c'è il Sabotino, dove c'è il San Gabriele, dove sono state tutte le battaglie dell'Isonzo. Poi in realtà lui aveva portato un Guarneri del Gesù, un violino preziosissimo, e non se l'è sentita di toglierlo, c'era un'umidità molto forte. E questo brano di Bach magari lo facciamo riascoltare idealmente questa sera. Direi che è stato un momento così suggestivo, emozionante, perché si è ritornati improvvisamente in un teatro di guerra e per fortuna in un momento di pace. So che comunque il festival che lei realizza ogni anno, ho detto che è la 10ª edizione o mi sono sbagliato? No, era un doppio anniversario. Il doppio anniversario, ecco. Però è un festival che ha avuto ospiti da tutto il mondo, no? Americani, russi, di tutto c'era. Turchi, israeliani, insomma l'apertura, la prospettiva era quella internazionale, così come da alcuni anni il festival ha iniziato a perseguire. E certo, anche perché i turchi hanno partecipato come impero ottomano alla prima guerra mondiale, no? Quindi certo. C'era ancora l'impero ottomano. Ecco, ma quello che fa impressione è che lei a Gorizia riesce a riempire delle grandi sale, queste tensiostrutture, anche 300-400 persone alle 9:30 del mattino. Come faccia, non lo so. Beh, il festival ormai si è affermato come uno degli appuntamenti nel suo genere di riferimento e il livello di gradimento va di pari passo anche con un'estensione della notorietà, e quindi non dico affatto che sia facile riempire, però è certamente molto meno temerario che all'inizio. Dopo 10 anni si è formato per usare una terribile espressione, uno zoccolo duro di ascoltatori, spettatori, persone appassionate che riempiono fin dal primo momento. Lei ha detto le 9, ebbene iniziamo anche prima perché c'è la colazione con la storia condotta da Giorgio Dell'Arti, con la quale scorriamo le notizie che hanno una particolare attinenza con il mondo della storia nei giornali quotidiani, e anche quello è un momento molto affollato e ci fa enormemente piacere naturalmente. Ecco, lei tra l'altro ha cominciato tutto questo attraverso la sua casa editrice, la sua libreria, perché lei appunto con il padre e il fratello avete questa libreria editrice goriziana, no? Sì, beh, all'origine di tutto c'è una passione per il mondo dei libri e una passione per la storia in particolare. La LEG, libreria editrice goriziana, è specializzata, anzi pubblica solamente libri di storia, esclusivamente storia, nelle sue varie forme, nell'ambito di diverse collane, quindi c'è memorialistica, così come saggistica, molti testi di storia militare, e da lì è nata però anche l'idea di, come dire, trovare un'amplificazione della nostra attività attraverso il festival. 10 anni fa queste iniziative erano non in fase nascente, ma non avevano avuto ancora il boom assoluto che poi hanno avuto in Italia, e, certo, e ci siamo in qualche modo anche noi accodati o comunque sono, abbiamo preso quell'onda, e fortunatamente il festival ha incontrato il gradimento del pubblico locale e nazionale. Ecco, io vorrei adesso aggiungere a tutte queste parole, ritornare un momento in quella serata del 22 quando Uto Ughi appunto ha raggiunto il piazzale dove ha suonato Toscanini e dove non se l'è sentita di togliere dalla custodia i guarnieri del Gesù per l'umidità, per diciamo quello che è accaduto. Allora tutto si è trasformato in silenzio, in un lungo applauso. E il brano di Bach è rimasto così nella mente di tutti, forse nell'aria, forse nei sentimenti. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento telefonico con Gorizia. Abbiamo appena parlato con Adriano Ossola, il patron del Festival Estoria, che compie 10 anni e che quest'anno, tra il 22 e il 25 di maggio, ha ricordato le trincee, la prima guerra mondiale, che cominciò nel 14 per tutta Europa, poi l'Italia entrò in guerra nel 15, il 24 maggio del 15. Ma per l'occasione abbiamo ricordato il concerto di Toscanini sul Monte Santo e anche il fatto che Adriano Ossola ha riportato Uto Ughi sul Monte Santo per rendere omaggio a Toscanini e a tutti i ragazzi che là combatterono. Dico ragazzi perché erano giovani di 20, 22, 21, 23, 24, 25. Non erano in fondo degli uomini maturi. Oh, e quando morivano, morivano in fondo dei giovani. E con noi abbiamo adesso, il microfono è stato passato a Roberto Todero. Ha pubblicato un libro molto bello, anche altri libri, ma in particolare questo libro ha un compact e di lei abbiamo preso l'iniziativa e appunto faremo ascoltare questi canti militari degli italiani d'Austria nel litorale. È un libro pubblicato dal gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi e Todero è uno specialista appunto di queste canzoni. Buonasera Todero. Buonasera. Ecco, cosa ci può dire delle canzoni della Prima Guerra Mondiale? Ci sono molte cose da dire, ma qualcosa di significativo? Beh, una grossa differenza la troviamo ad esempio tra le canzoni italiane che tutti quanti noi conosciamo, italiane d'Italia, cioè i canti degli alpini, tutte le canzoni legate al Piave, alla nostra memorialistica italiana, e le canzoni invece di quelli che nella copertina di questo nostro volume si chiamano italiani d'Austria o austriaci di lingua italiana, come si preferisce. Le prime, in effetti, le canzoni dei militari italiani, dei soldati italiani, sono diventate proprietà nel tempo dei cori alpini, ma dei cori comunque, e quindi armonizzate in una maniera molto diversa. Ci sono interessanti ricerche anche di musicologi famosi che dicono appunto come alla fine i soldati difficilmente avrebbero riconosciuto nel tempo queste loro canzoni, proprio per come i cori fanno quei belli spettacoli, quelle belle cose che sentiamo, ma non è più il canto sommesso, il canto nato nella tradotta o nella trincea. I canti invece che abbiamo raccolto in quel volume, i canti degli italiani d'Austria del litorale, sono rimasti invece così com'erano, nel senso che ovviamente l'Austria Ungheria, lo sappiamo, la guerra la perde, quindi sono in qualche modo i canti degli sconfitti, e canti che non vengono usati più, canti che non vengono più cantati sicuramente in pubblico, data anche la situazione italiana successiva al conflitto. Ecco, quindi, che sono rimasti in qualche modo conservati nelle case, nelle famiglie, nella loro forma originale. E in queste nostre serate di presentazione del coro e di questi canti molte mi hanno incontrato delle signore, soprattutto molto con gli anni, che sentendo questo o quel brano dicevano: ah, questa me la cantava la mamma in cucina mentre faceva la polenta, mentre cucinava, mentre puliva. E questo abbiamo tentato di fare, appunto, ridare voce, perché il ridare voce fa parte in qualche modo di quello che si chiama archeologia della Grande Guerra, no? Che è un mondo fatto da immagini che ci possono venire oggi da tutti i documentari recuperati del periodo, e i suoni, che sono appunto la nostra musica, e i colori, che possono venire solo dai musei dove possiamo toccare, vedere le uniformi e tutti gli oggetti militari. Il canto fa parte a pieno titolo di tutto questo, il canto ovviamente di tutti, perché crediamo che 100 anni dopo quel conflitto lontano vicino, no, in questo 2014, sia il momento di ragionare su tutti quanti assieme. Ecco, io volevo proporre una prima canzone, magari lei ce la può introdurre, perché è proprio il disco allegato al suo libro, che si intitola 1780-1918, Canti militari degli italiani d'Austria nel litorale. Erano italiani, ma diciamo così, nel territorio austriaco. E allora recuperiamo questi canti. Il primo che ho, diciamo così, programmato è Maledetta sia la sveglia. Che cos'è questo canto? Maledetta sia la sveglia è un canto che è molto significativo a parer mio, perché conosce tante versioni, tanti titoli e viene sfruttato in tante maniere. E forse è l'unico dei canti di quel nostro CD che ancora oggi si può sentire nelle osmizze, nelle private, nelle frasche, insomma in questi ritrovi dove ci si trova tra amici per mangiare e bere, che hanno continuato a cantarlo, a usarlo nelle più varie maniere. È una canzone nata all'interno del reggimento di fanteria che reclutava qui, austriaca, che reclutava qui nel litorale, che ci racconta appunto le difficoltà di un soldato nell'arco della giornata, le possibili punizioni. E Maledetta sia la sveglia è il suo titolo originale, e poi nel dopoguerra passa con il titolo De Mogela, cioè che vorrebbe dire battiamocela, scappiamo, in quanto si vuole nel dopoguerra che questi reggimenti che reclutavano i loro soldati qui fossero composti da persone poco disposte a combattere e molto disposte invece ad abbandonare le armi e saltare dall'altra parte. C'è un problema storiografico però, perché nel 1916 viene fatta una serie di registrazioni da parte dell'Istituto di Musica austriaco all'interno delle varie caserme, cioè si intende registrare i canti delle varie popolazioni nelle lingue originali, e per gli italiani d'Austria appunto viene scelto questo Maledetta sia la sveglia, che se fosse stato un canto rivoluzionario, se vogliamo dirlo così, non sarebbe sicuramente stato scelto. Ecco, chiedo a Roberto Todero, ovviamente questo è un tanti possibili esempi, ma i sentimenti di quegli italiani che trovandosi in quella condizione dovettero poi far parte dei reggimenti austriaci, com'era? Come si può dire oggi? Beh, è un problema molto complesso e ancora oggi tutto sommato molto discusso. E per quello che è il 1914, lo spirito di adesione è abbastanza diffuso, se non totale. È abbastanza diffuso perché innanzitutto l'Italia era ancora ufficialmente alleata dell'Austria-Ungheria, quindi soprattutto negli stati del popolo, che indubbiamente non avevano all'occasione né social network né televisioni né radio, erano convinti che quello che nasceva sarebbe continuato secondo quello che poteva essere una logica. Quindi si parte per quella guerra verso il fronte russo, il fronte balcanico, con la convinzione che prima o poi l'Italia entrerà in campo a fianco. E le cose diventano un po' più difficili dopo, quando l'Italia cambia appunto le sue alleanze, il patto di Londra, entra in guerra contro l'impero austro-ungarico, gli austriaci di lingua italiana cominciano ad avere i loro problemi, vengono isolati in dei reparti appositi, battaglioni sud-ovest, dove vengono concentrati come militari sia la gente del litorale sia tantissimi trentini, e lasciati al fronte russo, utilizzati soprattutto per la sorveglianza dei territori nel frattempo occupati in guerra. Parliamo dell'Ucraina ad esempio, il reggimento qua del litorale sarà il primo a entrare a Odessa per mantenere la situazione mentre in Russia c'era la rivoluzione. Insomma, ci sono momenti un po' complicati per queste persone. Diciamo che, come gli storici austriaci più giovani, quelli che hanno cominciato a fare ricerca non solo sui loro tedeschi d'Austria, no? Cioè sugli austriaci di lingua tedesca, ma un po' anche guardando gli altri popoli di quello che è stato l'impero, dicono che la paura dell'irredentismo ha fatto più male alla causa dell'Austria dell'irredentismo stesso. Certo, ecco, ma poi ci fu anche qualche scontro tra reparti italiani dell'una e dell'altra bandiera. Si arrivò anche a quello o non accadde mai? Cioè la prudenza dell'Austria fu tale che non mandò praticamente a scontrarsi con dei reparti italiani degli altri italiani? Beh, l'Austria aveva una grande attenzione per questo uso dei suoi cosiddetti, dei suoi popoli. E c'è un solo momento nel quale il reggimento, questo reggimento elettorale, questo 97° reggimento fanteria, ha un impiego sulle zone del fronte dell'Isonzo. Siamo subito dopo la dichiarazione di guerra, quando vengono formati in tutti i reggimenti asburgici i 10° battaglioni di marcia. Sono 10 mesi di guerra, ogni mese un nuovo battaglione di marcia, cioè di riserve, se vogliamo chiamarle così. Quando scoppia la guerra con l'Italia, molti di questi 10° battaglioni vengono usati in modo autonomo, cioè lontani dal loro reggimento d'origine, per tamponare falle e problematiche. Così il 10° di marzo del 97°, il reggimento appunto austriaco del litorale con tanti italiani, sloveni e croati, si trova a combattere sul Monte Seibusi, sul Monte San Michele, in particolare nella zona del Bosco Cappuccio, davanti alla sella di San Martino del Carso, tutti luoghi che sono presentissimi nella memorialistica italiana, ma così anche come in quella ungherese. E va detto che questo battaglione si porta benissimo, cioè combatte molto duramente, tanto da avere un enorme numero di perdite, e alla fine della seconda battaglia di Risonzo viene sciolto e chi rimane in vita, chi rimane abile, viene incorporato nel reggimento di Lubiana, e che dovrebbe dirci un po' di più anche sulla componente etnica, se vogliamo chiamarla così, certo, di questi soldati. Ecco, come possiamo dire, perché poi ad esempio la Domenica del Corriere fece una copertina perché due fratelli si incontrarono proprio forse in una di queste battaglie dell'Isonzo, uno con la divisa austriaca e uno con la divisa italiana, e gettarono le armi, si abbracciarono, si riconobbero. Non so se questa sia mitologia o se è un fatto realmente accaduto, però c'è una copertina della Domenica del Corriere, allora tanto celebre. Episodi di questo genere possono essere accaduti? Sì, ci sono anche frammenti di diari o pezzi di diari che parlano proprio di incontri di questo genere. E c'è chi non vede l'ora di incontrarsi perché appunto affratellarsi, c'è chi addirittura invece si maledisce all'interno della stessa famiglia per le scelte dell'uno o dell'altro, le scelte forse più di chi diserta in direzione dell'Italia, ovviamente, perché l'altro, rimanendo da questa parte del confine, fa una cosa normale, cioè fa il suo dovere, no? Certo. L'eccellenza eventuale sta in chi diserta, in chi va dall'altra parte, sapendo quello che rischia. D'altra parte, se possiamo ragionare sui numeri, abbiamo un numero che supera di poco il migliaio dei volontari redenti contro circa 60.000 abitanti di queste zone che vanno in guerra, diciamo, normalmente. Sì, certo, e del resto anche figure che da una parte vengono chiamati eroi, dall'altra parte sono chiamati traditori. È il caso, mi pare, di figure anche storiche che poi sono state portate a esempio. Cesare Battisti, mi sembra. Sì, certamente. Direi che è la solita storia, cioè l'eroe di uno è spesso il traditore o l'assassino dell'altro. Va detto che gli stessi comandi italiani, quando si vedono di fronte i primi redenti che arrivano, chiedono di essere arruolati, eccetera, hanno delle forti perplessità su questa cosa, perché la casta militare in generale in tutto il mondo, di fronte a un disertore di un altro esercito, anche se sta venendo verso di me, verso il mio, lo vedrò comunque sempre come un disertore. Se ha tradito una volta, potrà dirne due, potrà dirne tre, e questo fa parte della mentalità militare, in particolare popolare forse di quell'epoca, ma non è detto. Cioè Battisti per esempio tenterà tante volte di parlare con Cadorna, che gli farà dire che il generale Cadorna non ha bisogno dei suggerimenti del tenente Battisti. Certo. Ora vorrei ascoltare Serbia, è l'ultima canzone del disco allegato al suo libro. Che cosa rappresenta questa canzone? È una canzone molto interessante, proprio nelle prime parole dice tanto, quando dice crudele e ingrata Serbia, ingrata perché l'Austro-Ungheria nei suoi movimenti nei Balcani, dopo aver perso i territori italiani, no, del Lombardo-Veneto, diventa un impero con lo sguardo rivolto molto ad est e molto ai Balcani, il momento nel quale appunto durante le guerre balcaniche l'Austria ad esempio mobilita nel 1911 ma non entra in guerra, lascia mano libera ai paesi che si combattono, Serbia compresa, ed ecco l'ingrata Serbia, no, della canzone, crudele poi perché c'è questo attentato di Sarajevo, dove non dobbiamo dimenticare che muore una persona che non è solo Francesco Ferdinando, ma c'è quella piccola E in mezzo, no? Perché siamo sempre abituati a leggere l'erede al trono, Francesco Ferdinando è la consorte duchessa di Hohenberg, povera, è la prima donna che muore nella prima guerra mondiale, la E consorte duchessa di Hohenberg, e quindi crudele Serbia. E poi le parole ovviamente si rifanno alla storia familiare, al passare davanti al caro ritratto dove è necessario piangere, insomma una volta, ma direi fino agli anni 50, forse anche 60, era normale avere in casa il ritratto dei cari morti o in guerra o comunque morti, oggi come oggi forse non si usa più con questo surplus di immagini nel quale siamo immersi. Certamente, ricordo appunto di quello che parlava Roberto Todero, che è l'attentato di Gavrilo Princip che scatena la prima guerra mondiale, quando questo studente serbo uccide appunto l'erede al trono d'Austria e la sua consorte. Siamo nel 1914 e per una serie di meccanismi... 8 di giugno Francesco Ferdinando viene ucciso perché era un personaggio che stava diventando scomodo a tutti. Francesco Ferdinando guardava con un certo favore, no, al discorso trialista, al discorso di dare più importanza ai popoli slavi dell'impero in generale, e va da sé che se l'Austria fosse divenuta in qualche modo la patrona degli slavi dell'impero, la Serbia perdeva completamente importanza nei Balcani, avrebbe perso quell'idea di unificazione dei popoli slavi che cercava di portare avanti, ma Francesco Ferdinando era scomodo per molti, era scomodo per gli ungheresi che erano molto gelosi della loro autonomia all'interno del dualismo austro-ungarico, era un personaggio molto particolare del quale in Italia si è detto molto poco e molto male secondo me. Vabbè. Roberto Todero e Adriano Ossola, abbiamo 30 secondi per salutarci. Beh, io vi saluto e ripasso la parola senz'altro all'amico Adriano che vi darà un arrivederci l'anno prossimo. Certo, vogliamo ora salutare Adriano Ossola, l'organizzatore del Festival Estoria, colui che ha un po' messo in moto tutto questo incredibile meccanismo delle trincee, questi ricordi internazionali sulle trincee. Beh, abbiamo sentito comunque come gli autori abbiano tanto da raccontare in maniera così poetica e fornendo non solo informazioni storiche, riuscendo a toccare le corde direi anche dell'emozione. È stato bellissimo l'intervento di Roberto Todero. Certo. In questo senso, e così è un po' il festival, tante voci che possono finalmente trovare una platea ampia con la quale colloquiare, alla quale trasmettere l'emozione della storia, non solo il puro dato numerico, quantitativo, eccetera. Bene, grazie Adriano Ossola, grazie Roberto Todero e grazie a voi cari ascoltatori. Vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno.